Catherine Dior e Louise Michel, la libertà delle donne. Nel corso della storia, le donne che hanno lottato per la libertà, mettendo a rischio continuamente e pesantemente la propria vita, sono state innumerevoli. Quasi sempre la narrazione storica che si impara sui libri di scuola le dimentica queste donne, ma noi, come Scuola delle Donne, ci siamo date il proposito di raccontarle e, se possibile, collegare le loro intense vite. In questo docuvideo vogliamo parlarvi di Catherine Dior, eroina della resistenza antinazista francese, il cui nome porta immediatamente a pensare agli abiti e ai profumi della Maison Dior, la casa di moda di suo fratello Christian. Jeannette Dior, questo era il vero nome di Catherine, nacque nel 1917. Insieme al fratello Christian e agli altri due fratelli, crebbe e visse nell'agio sulla costa della Normandia grazie al successo dell'azienda paterna di prodotti chimici e fertilizzanti. Purtroppo la Grande Depressione del 1929, con i suoi devastanti effetti recessivi, mise in ginocchio anche i Dior e così il padre fu costretto a chiudere la sua impresa familiare. Gli anni 30 furono dolorosi e traumatici per la giovane Jeannette, che in poco tempo si ritrovò ad essere spettatrice impotente dello sfaldamento della sua famiglia, nonché alla fine della propria tranquillità economica. Già allora Catherine, sebbene fosse solo un'adolescente, dette prova di grande forza d'animo e resilienza, adeguandosi a vivere in modo semplice e naturale nella casa di campagna in Provenza dove la famiglia si era trasferita. Lì fece tesoro della passione per la botanica trasmessale dalla madre e divenne una giardiniera e orticoltrice. Nel 1931 morirono entrambi i suoi genitori, uno dei fratelli venne ricoverato per gravi problemi psichiatrici e l'attività commerciale del padre crollò definitivamente. Jeannette andò a vivere a Parigi con il fratello Christian, il quale in quel periodo lavorava già in una casa di alta moda a Parigi come giovane apprendista. Fu lì che la fanciulla scelse di farsi chiamare Catherine. Fratello e sorella erano da sempre molto uniti. Lui faceva del suo meglio per mantenere entrambi con i suoi primi guadagni. Tuttavia, anche quella modesta entrata stava per essere interrotta dal corso degli eventi. Nel 1939, infatti, il ragazzo fu arruolato nell'esercito francese e partì per il fronte. Di nuovo, la casa in Provenza e la vita naturale furono il rifugio migliore per la 22enne Catherine, che trasformò l'abitazione rurale in una fattoria funzionante. Accanto alle rose e ai gelsomini, piantò fagiolini, piselli, cavoli e carote, curò con le sue mani i filari di viti e, radicandosi alla terra, aspettò che i tempi cambiassero e che l'amato fratello tornasse sano e salvo a casa. E Christian, per fortuna, tornò davvero dopo che la Francia si arrese, travolta dalla guerra lampo tedesca il 25 giugno 1940. 2 anni dopo, Catherine e Christian erano tornati nella Parigi occupata. Al giovane stilista era stato offerto un posto dal suo vecchio datore di lavoro come disegnatore di abiti per le mogli e amanti degli ufficiali nazisti. Va detto che tutti gli stilisti parigini si piegarono a questa necessità, tranne Coco Chanel, che fu l'unica a chiudere la maison. Il giovane Dior trascorse gli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale cucendo abiti raffinati per le esponenti di questa nuova classe sociale e non più per le aristocratiche parigine di un tempo. Ma se Christian aveva deciso di assumere una posizione collaborativa nei confronti del regime, Catherine seguì tutt'altra direzione. Infatti, nello stesso anno, si innamorò del fondatore della Resistenza francese, più anziano di lei e padre di 3 figli. Con lui Catherine si unì presto alla lotta contro i nazisti, sfruttando le sue doti innate di fascino ed eleganza per acquisire informazioni sull'esercito nemico. Girava in bicicletta per la campagna, scattando foto e inoltrando i suoi resoconti agli ufficiali dei servizi segreti britannici, e inoltre usava l'appartamento che condivideva col fratello come quartier generale della Resistenza. Questa sua militanza clandestina andò avanti fino al 1944, anno in cui lei fu arrestata e imprigionata nella sede della Gestapo, dove donne e uomini prigionieri venivano torturati per avere i nomi dei compagni e poi spediti, quelli che sopravvivevano, ai campi di concentramento. Sorprendentemente, dopo 3 settimane di inferno, Katrin era ancora viva, anche se provata fisicamente e psicologicamente. Non aveva fatto un solo nome. Christian, a seguito di ciò che era accaduto alla sorella, visse un periodo di profonda crisi personale. Il 14 agosto 1944 Parigi cadde nel caos, le forze alleate sbarcarono in Normandia e i nazisti iniziarono a fuggire con le proprie famiglie, rubando tutto ciò su cui riuscivano a mettere le mani. Le reti clandestine della resistenza, dal canto loro, uscirono allo scoperto. In questa condizione di totale disordine sociale, un treno uscì dalla stazione ferroviaria di Pantin con l'ordine di trasportare 600 donne al campo di concentramento di Ravensbrück, fuori Berlino, e fra loro si trovava anche Katrin. Christian, a conoscenza di quanto stava accadendo, tentò disperatamente di salvarla con l'intercessione del console svedese. Ma nonostante i tentativi di ritardare il treno con sabotaggi da parte della resistenza finché la sorella fosse consegnata agli svedesi, Christian non riuscì a riportarla a casa. Il treno su cui era la ragazza entrò in Germania e poi al campo di concentramento di Ravensbrück. Katrin fu rasata, tatuata e le venne applicato sull'abito il triangolo rosso, simbolo che denunciava l'appartenenza alla resistenza. Visse un anno di reclusione terribile e estenuante, trascinata attraverso una rete tedesca di campi di concentramento e costretta a fabbricare strumenti di guerra per i suoi carcerieri. Il 13 aprile, mentre si trovava nel campo di Lipsia a fabbricare parti di aerei, fu dato l'ordine ai prigionieri di partecipare ad una marcia della morte, che consisteva nel fare un lungo percorso senza cibo né acqua e chi tentava di fuggire veniva fucilato sul posto. Katrin, per quanto fosse emaciata e denutrita, non aveva perso la sua tempra e lucidità. In qualche modo riuscì a diventare invisibile e a scivolare silenziosamente nel bosco che costeggiava la strada. Incontrò dei soldati americani che la portarono in ospedale, dove rimase per un mese intero. A maggio, Katrin e Christian finalmente si ritrovarono, dopo che lui non aveva mai smesso di cercarla e di sperare di ritrovarla viva. La giovane arrivò alla stazione di Parigi su un treno sovraffollato di sopravvissuti. Quando scese era irriconoscibile. Nel loro appartamento, Christian volle festeggiare questo ritorno alla vita, ma prima che lei riuscisse a dormire e a digerire di nuovo del cibo, passeranno diversi mesi. Katrin lottò per ritagliarsi nuovamente un posto in una società che voleva rinascere. Si adoperò per aiutare i sopravvissuti e le sopravvissute a ritrovare le famiglie, testimoniò contro i suoi torturatori, ma raramente parlava dell'anno di prigionia. La natura le aveva insegnato ad avere solide radici nel presente, dunque rivangare il passato era inutile e dannoso. Dopo la fine della guerra, ormai trentenne, Katrin tornò nella casa delle rose e dei gelsomini di suo padre in Provenza e riprese l'attività agricola, gestendo anche la nuova dimora di Grasse acquistata dal fratello grazie ai suoi ingenti guadagni di stilista. Si specializzò nella produzione dei fiori essenziali per la produzione dei profumi, rose centifoglia, mughetto, lavanda. Vendeva i suoi fiori sia alla Maison Dior sia alle case profumiere di Grasse e di tutto il mondo, una delle prime donne della storia francese ad acquisire la licenza per vendere i fiori che ogni settimana portava a Les Halles, il grande mercato della capitale, per venderli. Prima di ritornare in campagna, Catherine si fermava all'atelier del fratello per consegnargli i mazzi del suo fiore preferito, il mughetto, che veniva poi da lui cucito negli orli degli abiti. Ad una di queste consuete visite all'atelier è legato anche un momento davvero iconico per i Dior. Nel 1947, infatti, Christian stava cercando un nome per il suo primo profumo. Era ancora indeciso quando Catherine entrò nella stanza. Qualcuno disse: "Ecco Miss Dior." E Miss Dior divenne il nome di uno dei profumi della Maison Dior più celebri al mondo. Le sue note di gelsomino e di rosa erano un omaggio ai fiori che sua sorella amava e che coltivava ogni giorno. Catherine, per la sua attività nella Resistenza, ricevette onorificenze altissime che non sfoggiò mai, tuttavia, perché portava la sua storia cucita dentro di sé, in silenzio. Quando nel 1957 Christian Dior morì improvvisamente, la quarantenne Miss Dior fu nominata erede morale, responsabile della salvaguardia della sua eredità artistica, compito che affrontò con dedizione e meticolosità. Catherine affrontò anche la perdita dell'amatissimo fratello senza lasciare che il dolore, nonostante tutto, definisse la sua vita. Al contrario, riempì i suoi giorni dei gesti semplici della sua vita di campagna, alla quale non rinunciò mai. Nella sua fattoria continuò a coltivare rose e gelsomini fino a tarda età e lasciò il corpo a 91 anni nel 2008, dopo aver trascorso gli ultimi 50 anni coltivando fiori. Mentre terminiamo la scrittura delle pagine dedicate a Catherine, emerge e si affianca una forte presenza che vuole essere vista e raccontata, quella di Louise Michel, femminista anarchica. Ancora non sappiamo quale legame potrebbe avere con Catherine, dato che Louise nacque quasi un secolo prima, ma decidiamo di raccontarla per scoprirlo. Louise Michel nacque nel 1830 nel nord-est della Francia, tra Nancy e Dijon. Figlia non legittimata di un nobile e di una domestica, fu allevata dalla nonna e dal nonno paterni, illuministi e liberali, che le permisero e anzi la incoraggiarono a studiare. A 22 anni si diplomò maestra e conseguì l'abilitazione all'insegnamento, cosa che all'epoca rappresentava il massimo titolo di studio concesso alle donne, le quali, come sappiamo, non erano autorizzate a frequentare l'università. Ma poiché si rifiutò di prestare giuramento all'imperatore Napoleone III, il quale con un colpo di Stato tra la Seconda e la Terza Repubblica aveva ripristinato il trono di suo zio, in quello che fu appunto chiamato il Secondo Impero, Louise non poté insegnare nelle scuole pubbliche e pertanto ne aprì una privata. Rifiutò di sposarsi e distribuì ai poveri la cospicua eredità lasciatale dal nonno alla sua morte e a 26 anni si trasferì a Parigi, dove continuò la sua attività di insegnante in istituti privati. Nel frattempo si opponeva al regime e lo scriveva chiaramente sui giornali, cosicché le autorità cominciarono a tenerla d'occhio anche a causa della sua pedagogia laica e basata sull'uguaglianza tra i sessi e tra le classi sociali. Cominciò a frequentare gli ambienti rivoluzionari socialisti, sentendosi legata agli ideali della prima rivoluzione. A 39 anni venne nominata segretaria della Société démocratique de moralisation, che combatteva la prostituzione dando lavoro alle operaie, e l'anno successivo divenne presidente del Comitato di Vigilanza dei Cittadini del 18° arrondissement di Parigi. Quando Napoleone III fu fatto prigioniero nella guerra franco-prussiana, cosa che segnò la fine del Secondo Impero, Louise partecipò alla Comune di Parigi, un'esperienza di autogoverno popolare durata un paio di mesi, da marzo a maggio 1871. Il Consiglio della Comune, che rifiutava l'autorità centrale di Versailles, era formato da operai, artigiani e intellettuali che uniti esercitavano insieme il potere legislativo ed esecutivo. La Comune introdusse riforme significative nonostante la breve durata: separazione tra Stato e Chiesa, abolizione dell'esercito permanente, gratuità e laicità dell'istruzione, autogestione delle fabbriche e parità di genere. Tra gli scritti di Louise vi è un saggio intitolato proprio La Comune, nel quale lei spiega con passione la filosofia alla base di quel progetto di vita. Ma la Comune fu violentemente repressa dal governo francese durante la cosiddetta settimana di sangue. Ci furono decine di migliaia di morti e molti arresti, tra cui la madre di Louise, condannata alla fucilazione. Louise si consegnò alle autorità in cambio della madre, rifiutò di difendersi e si dichiarò responsabile di tutti i capi d'accusa imputatile, dei quali era totalmente consapevole e che aveva deliberatamente compiuti, dichiarò, in nome della rivoluzione sociale. Dopo aver assistito alla morte dei suoi compagni e compagne di barricate, chiese la pena di morte per se stessa, ma invece fu deportata in una colonia penale francese in Nuova Caledonia. Nei 7 anni che vi trascorse, Louise interagì con i nativi Kanaki, i quali vivevano in maniera istintiva e naturale proprio quella vita comunitaria che a Parigi si era tentata con l'esperimento comunardo. Quasi cinquantenne, nel 1879 le venne permesso di trasferirsi nel capoluogo dell'isola per svolgere il lavoro di insegnante, dapprima per i figli dei deportati e poi per un gruppo di bambine. Ma quando l'anno seguente ottenne la grazia, tornò a Parigi per riprendere la militanza politica, ora come membro del movimento anarchico al quale si era nel frattempo avvicinata. Nei successivi 15 anni entrò e uscì dal carcere per la sua attività politica in un percorso di vita molto simile a quello della sua contemporanea Rosa Luxemburg. Ogni volta che usciva riprendeva a predicare, quasi con attitudine mistica, totalmente consacrata alla causa della libertà, probabilmente ispirando Simone Weil e le altre incredibili donne che si dedicarono alla causa politica con fervore spirituale. Per Louise, la donna sarebbe stata il motore del cambiamento e della rivoluzione, poiché sosteneva che nessun dolore era paragonabile a quello sofferto dalla donna. Fondò giornali e viaggiò anche in Inghilterra, Olanda, Belgio e in Algeria. A Marsiglia, dopo una serie di conferenze, lasciò il corpo a 65 anni. Al suo funerale laico a Parigi partecipò una grande folla che l'accompagnò alla sepoltura accanto a sua madre, come da lei espressamente chiesto. Di Louise scrisse Emma Goldman, anarchica americana di cui la nostra scuola si è già occupata, poiché influenzò la creazione del Monte Verità in Svizzera. Emma riconosceva in Louise Michel una figura fondamentale del movimento anarchico e femminista e onorava la sua dedizione totale alla causa rivoluzionaria, paragonandola spesso a un'eroina del popolo e considerandola un modello di emancipazione, in particolare nell'approccio all'amore libero e alla sessualità come strumenti della battaglia per la parità di genere. Ed ecco che allora il collegamento tra Catherine Dior e Louise Michel appare chiaro e nitido. Non importa in quale epoca, la lotta delle donne è sempre la stessa e le donne francesi sono sempre state degli esempi di coraggio e fermezza nel rivendicare la parità di genere e la libertà. Dal saggio La Comune ascoltiamo la voce di Louise. Qualche anno prima della sua fine, l'impero rantolante si attaccava a tutto, al ciuffo d'erba come alla roccia, e tutto gli sfuggiva. Ma pure si aggrappava sempre, con gli artigli sanguinanti e i piedi nell'abisso. Ma venne la disfatta. La montagna, precipitando, lo schiacciò. Quest'epoca è il prologo del dramma che cambierà le basi delle società umane. Le nostre lingue imperfette non possono rendere esattamente l'impressione magnifica e terribile del passato che sparisce, confondendosi con l'avvenire che sorge. Non si può uccidere un'idea a colpi di cannone, come non le si possono mettere le manette.